su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accendo la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accendo la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. M2O. Forza, forza, con queste mani, dai, dai, fatemi vedere, fatemi vedere, fatemi vedere, su, su. Dai un po' sulle mani. Settimana, vota il brano che vuoi ascoltare il sabato pomeriggio nel cammino di Gigi D'Agostino. Vai su www.gigidag.com e fai la votazione. Numero 33. Ma che è? Fiesta Don't Stop. Woofer. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Dai un po'. Tutti che mani verso la console, forza, tutti col folclorista, dai! Andiamo a 130 e vai. Cielo, sì, sì. Sta trasportando. Sì, sì. Siento. Numero 32. 2. Siento. Luca Noise. Sta trasportando. Bogacci via questo. Siento. Necesito una luna de la acción. Signori, Gigi D'Agostino. tempo a tempo. Mi piace tanto tanto. Mi piace se lo passo insieme a te. Folclorista, stai a capire? Mo davvero davvero. Conto, un conto, le parti fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Dai e po' sulle mani. Gigi D'Agostino, mica bruciolino. Ma che ha fatto di questo? Dai un po' con sta cassa. Cammino del Gigi D'Agostino. www.gigidagostino.com. www.gigidagostino.com. www.radiogg.com. www.radiogg.com. E fai la votazione. Bagaça. D'Agostino! Ci sono giorni che sono triste, ma sto bene, non so più se il colore del sereno sia quel nero o dolce blu. Ho bisogno di quel buio che sta lì dentro di me per capire, per starmi della luce intorno a me. Mentre scrivo sta canzone sono in viaggio e penso che Spagna e Francia sti paesaggi mi raccontano di te. Non c'è cosa e non c'è luogo che non sappia di noi due, e nel mare al nostro amore con le ali di e due. Non aspetto una ragione che ti induce a dirmi che soffri troppo, non è amore, quella lì non fa per te. Quel che sento quando soffro solo io so che mi fa. Io non voglio star tranquillo, voglio questa vita qua. Non aspetto una ragione che ti induce a dirmi che soffri troppo, non è amore, quella lì non fa per te. Quel che sento quando soffro sembrare una canzone di un bizzarro iettatore, ma son solo dei sentieri di un dottore pensatore. Non è vero che son triste, sono sensazioni miste, sto devasto che mi ha avvolto, mi ha ravito, mi ha sconvolto. Malinconico e struggente è il mio mondo, sì lo so, ma piuttosto che la plastica io lascio e me ne vo. M2O musica allo stato puro, te ripide sicuro, te dico fermate. Numero 4. Semplicemente Gigi D'Agostino. Vedi che melodia! Una canzone del tuo amico un po' panzone, affacciati al balcone e rimani in attenzione. E rimani in attenzione. Se vuoi ascoltare una canzone del tuo amico un po' panzone, affacciati al balcone e rimani in attenzione. Rimani in attenzione. Affacciati al balcone e rimani in attenzione. Affacciati al balcone. Il cammino pino pino pino pino di Gigi del Postino. Ecco qua, va. Andiamo, regà. Folclorista. La la la. che non sento, la chiudo nell'armadio, ma esco con la mia radio. Non ci sento, non ho tempo, mi chiudo nell'armadio e ascolto la mia radio. E se lei poi urla perché sente che non sento, la chiudo nell'armadio, ma esco con la mia radio. M2O. Thank you. ascoltando Il cammino di Gigi D'Agostino. Ma quanto vola il tempo quando io sto con te, e quanto è fermo il tempo se tu non sei con me. Ma quanto sente il tempo l'amore che ho per te, perché ti sento dentro e tu voli con me. No, now you're sleeping away in your bed. And I'm here, I'm thinking what you say. A long time away, but always the same in my heart. A long time away, but always the same in my heart. So your face, think of you. D'Agostino. Lo stato puro, da ripire sicuro. Dal folclorista, ma che cazzo. We'll be right back. D'Agostino, mica noccioline. La console, forza, tutti col folclorista, dai! Dai, e po' sulle mani! Ma che cazzo, forza, forza con ste mani, dai, dai, fatemi vedere. Su, su, su, su. come spegni sta musica? È arrivato il folclorista, eh? Dai un po'. Spettacolo, frate. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ci sintoniamo, sintonizziamo nella frequenza capitolina. M2O. Sai un picci ce fai con i mischi sonori, sì. Hai visto, dalle altre parti fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Sera, sabato 4 febbraio 2006, ore 23, discoteca Vanilla, località Pian del Casone, Monteriggioni, Siena. Venerdì 10 febbraio 2006, ore 21, discoteca Nachtschicht Deluxe SCS. SCS Multiplex Top 13, località Vosendorf, Austria. Programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco rimani vicino, gira. No, com'era? Chi viaggia poco? Chi viaggerà poco resterà vicino. Chi viaggia poco resterà vicino. È il cammino del Gigi D'Agostino. Pagassa. Capisci un po' sta musica? Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, che forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo fa? Quando è che sbaglia? Quando ci dona? Qual questa loro figlia. Ecco che sta arriva, dai, andiamo. Numero 30. Why me? Dos. Dai un po' sulle mani. Cammino di Gigi D'Agostino, un film di Gigi il folclorista, pensato e mixato da Gigi D'Agostino e Luca Nois. È ora di finirla, sigla. Sì, è finita. Se n'è andata sta puntata, mo mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti devi rattrista, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai bravo tutti i giorni. Ogni sabato t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare perché devo respirare. Ah.